allô. Ah, voulez. Oh, ya. Coco, mané. Eh beh, cosa mi racconti? Che sto preparando una fainé, che poi una fainé già pronta, no, è solo da mettere in forno per 7 minuti. E c'è un freddo ai piedi che non ti dico, guarda. Siccome ha fatto un po' di fumo il fornetto, no, perché c'erano dei residui, no. Ha fatto un fumo, ho dovuto aprire la porta finestra a far uscire il fumo. E si becca quello di sotto. No, no, no, no. No, si disperde. Poi il fumo sale, non è che scendono. Che non sia fumo pesante, boh. Gas pesante, tipo il cloro che va in basso. E tu metti un ventilatore puntato verso di lui e così introdi, così impara. Ehi. Caro Natalino, tra pochi minuti dovrò andare a controllare. Non lo so se entrerò oggi, Ieri Bonolis non l'ho voluto guardare, ma oggi mi sa che me lo guardo. Mamma mia. Se entrasse gente, ma non sta entrando, ma visto non sta più entrando nessuno. Ogni tanto Giulio. È una cosa allucinante, proprio da vendersi tutto me, senza scherzi, Sì, facciano come credono, boh, cosa vuoi ti dica. Stamattina stavo parlando con Graziano, io. Di là però, non qua. Ma non te l'ha chiesto ieri? Come mai sei sparito? Cioè, non te l'ha chiesto oggi, come mai sei sparito ieri? No, non mi ha chiesto niente, la verità. È che sulle prime mi si è scaricata la batteria, quella grande, a chi mi la più. Non l'ho mai cambiata, praticamente. Dura casa all'infinito questa batteria. E ci ho messo quella piccola. Adesso l'ho rimessa e ci ho messo quella piccola a caricare. Ma quale batteria? Del portabile. Ah, ho capito, sì. Quella grande, certe volte anch'io la volevo prendere, ma dopo tutto è nata lì. Entra a salutare lì. Faccio qualche passaggio, poi vado via, non. Tipo un uso intenso, magari radioamatori, no? Che fanno, sai, passaggi anche sui ponti, stanno un po' qualche oretta, ma alla fine no, non la userei quella, non la sfrutterei quella batteria. Diciamo, quello è per un uso intensivo, non per usi normali. Ehi, lo so. Ma a me mi dura a non finire, è una batteria paurosa quella. Lo so, il doppio. Se sono da 1.800 quella originale, quella da 3.600 o 3.800, non mi ricordo. Cioè 3,6 ampere o 3,8 addirittura. È un bel. Ma comunque sono belli questi portatili perché sono molto accessoriati. Trovi accessori di tutti i tipi. Tanti tipi di microfoni, tanti tipi di custodie, tanti tipi di. Come si dice? Bah, non mi viene, di batterie, almeno quelli di roba. Cuffie con microfono, tipo quelle tipo computer. Accessori, un bel. Battery Eliminator, eccetera, eccetera. E io ho un microfono in più che l'ho trovato stamattina. Poi c'ho quello che si mette all'orecchio, c'è il microfono, bellissimo. Uno mi aveva contattato per un baracchino, no? L'Intec HR5005, no? E prima ha chiesto varie cose, mi diceva, ma lo dai col cavetto in programmazione? Sì, anche se è già programmato, ho detto. E poi se ne esce, quello che mi blocca nel comprarlo è la distanza perché non lo posso provare l'apparato. E allora perché che cazzo mi hai contattato, scusa, se è una vendita a distanza? Con Lione. Sì, lì è piena di gente che chiede roba, chiede come fare il pagamento e poi non. infatti c'è un utente acquario che scrive: astenersi per di tempo e indecisi, capito? Astenersi per di tempo, oppure ce l'ho detto, astenersi rompiballe o indecisi. Sì, infatti, perché c'è gente che, mamma mia, meglio la morte. Se ti piace di rubigli, se no non siamo nel manco, cosa andiamo a fare? Eia, ma io infatti quando ero interessato, proprio l'acquario ho comprato, ho detto, dimmi come pagarti. Ho spedito, pagato, spedito, ecco come si fa, chi è veramente interessato come fa. Invece, vabbè, mi hanno illuso, io già mi sentivo i soldi in tasca. E questo mese siamo tornati nei guai, meno male che decido io, e fin quando non la prende mia moglie ci abbatteranno, perché con il libretto non gliel'hanno più rifatto, deve andare con il libretto vecchio dell'Inps, capito? E gli tocca il 6 invece che l'1. Eia. Beh, Natalia, io vado a controllare questa roba, dai, che poi devo rimettere la seconda infornata. Ti saluto, Natalia, non credo, c'è un bicorrente qua, c'è un freddo a cagarsi, quindi mia madre c'ha il vizio di aprire finestre in inverno, è mancante, capito? non lo so cosa c'ha, vabbè. Dai, ci sentiamo, Natalia, ciao, buona serata. Sì, altrettanto, buona mangiata. Dormi, a futurdini. E io stavo parlando con Marco poco fa, a quello che dormi. E che fine ha fatto Marco? Scommetto che è andato a guardarsi Bonulis. No, stasera in Furrendi fai lì. In Furrendi, entendi, ero si tratta male un bestino, no? Infatti ha detto buona mangiata, ha detto che doveva infurrarsi la seconda griglia. Caspita, babbo, a due griglia, che è pettina, non so io. Magari so più di lui, tu. Una mira doveva cavare e poi si doveva infurrare l'altra. Intendi, perché una se ne mangia niente, una se ne mangia la mamma e poi io ci sono a pure. Avrei preferito infurrare in un altro senso. Quello si sa. Quello sicuramente ti do ragione anch'io. Però a te ti viene male. E se rimane in casa per forza. Lui deve uscire. Se lui è, se trova. Se tu vai verso per Daniela lì, allora ti puoi anche togliere quello sfizio. Vai con quelli lì pucciolenti, no, e a trovarsi una ragazza buona di carattere, eccetera. Eia, sì, l'abbiamo gustata, era una faniglia pronta, ma buonina, cioè fai me dopo tutto, certo non è quella di usai, però ci abbiamo messo il pepe sopra, un po' di pepe nero, e buona, buona, buonina, dai. Le cipolle ci deve mettere, o le salsicce? Guarda, già ci rifacciamo però, un giorno andiamo a pigliarcela con le cipolle. Fai ne con le cipolle, mamma mia, fatte bene però, è una cosa incredibile la bontà. Sai dove andavamo a mangiarle all'ora di pranzo? Alla piazzetta, no? C'era questo coso che faceva sia fanecchie che pizzette, no? E sedevi lì e mangiavi lì. E ti dirò che era veramente buona, niente da dire rispetto a usare. Buona. La pigliavamo con le cipolle e poi un pizzichino di pepe, la morte sua. Con le cipolle è proprio per me la migliore di tutte. Anche meglio di quando si mettono le salsicce. Per me con le cipolle è più buona. Con le salsicce, anche perché poi la salsiccia, quando è cotta, diventa anche dura, non perde tutto il sapore. Natalì, ruba il giorno d'ondo, si va a fondo e non ha stata più semplice da fare la farina, a fare farina, fare la farina. Allora, io la metto e faccio un tondo, due qua. A me mi piace, la pasta con i ceci, a me mi piace. Caspita, e mi piace anche molto con lo capofiore, caspita, è proprio buono, mamma mia. Sempre doppia io faccio. Mia moglie ci mette i salamini dentro, in mezzo, oi! Buona resa, come ti dice Graziano. Buona resa, ma Graziano, valetta, ma mi pare che sono, non ti cucina già niente, cucina già tutto la moglie. Comunque, se vuoi mangiare pane buona, a San Donato da Antonio. Chissù gli aveva fatto un avvio. Lo so qui, chissù che viene, ma chissù che viene l'ingresso, l'ha fatto nel corso? È San Donato, come entri tu nella cosa di San Donato, nella via di San Donato. Dice uno che fa la faenima all'inizio proprio, entri dal corso. Già lo so, quello che è a sinistra, già l'ho mangiata anche quella, buona. E se no ce n'era un altro, in una, sempre lì in corso Vittorio Emanuele, in fondo, la prima a sinistra scendendo. Di diritto c'è il forno della Fainista, c'è ancora, non lo so. Non lo so. Oppure, ma quello che c'era in via Santa Apollinare ancora c'è, normalmente come si chiama, è uno di vecchio stampo. Non lo so, no. È lì vicino a quello che fa le pratiche auto, lì ce n'era uno in via Santa Apollinare, e anche quello la faceva molto buona. La moglie lo sa. Io l'ho conosciuta anche la paese. Oh, ma ancora c'è questo? Non lo so, non c'è questo andato. Quella la faceva buona, Poi so che ce n'è anche una al latte dolce. È un tipo in gamba che lo fa buono anche lui. Se c'è ancora, poi non lo so. Esattamente. Aspetta, lasciami ricordare la via. Adesso la via non me la ricordo, accidentaccia la memoria, non me lo ricordo la via Natalia, ma c'è lì a latte dolce, ce n'è uno che la fa buona. Questo non lo so, ok, poi abbiamo qua anche dei punti eccetera, non vedo problemi, però ai punti sono più bravi per fare la pizza al pomodoro, e quando cade lì la pizza la fa buonissima. Oppure a Predanie da Spidi, come cavolo si chiama, Spidi Dette, Date, Boh, che cavolo si chiama, quello che c'è nella piazzetta di Bricomen. Sì, cappa, lì siamo andati a mangiare la pizza da Spidi Dette. Siamo andati insieme, gatta. Eravamo una bella graffetta, siamo andati e abbiamo mangiato la pizza. Sì, certo, io ci sono andato lì quando? Un mese fa sarà, una cosa del genere. Mentre 10 giorni fa più o meno siamo andati lì da cosa, la piazzetta, su alla piazzetta, accanto al parrucchiere che c'è lì. Anche lì la fanno buonissima, è un locale meraviglioso, bellissimo. Siamo di solito la compriamo noi qua vicino al pomodoro, quindi noi siamo vicinissimi al pomodoro, andiamo, la compriamo lì e ce la portiamo a casa e ce la mangiamo in santa pace tutte le settimane. E cosa so, sarà 200 metri da casa, una cosa del genere, e dunque è vicinissimo, no? Non ce ne sono problemi. Sì, ebbene, oh Marco, pronta in tafferia, aiuto! Sì, via ragazzi, vi devo salutare, dai, la sto togliendo dal forno, dai, ci sentiamo un'altra occasione, in un'altra occasione, dai, tanto stasera non entro, che c'è freddo qua. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Altrettanto, buona mangiata a te e a chi sei con te. Ciao Marco, salutami quel maleducato di Paolo Boloris. Ehi, ehi, no, che poi in verticale mica è così, ci mancherebbe. E se fosse così anche di persona si piglierebbe due schiaffoni lui. È tutto preparato lì, dai, tutta scena. Tutta scena, vabbè. Buon divertimento. E buon appetito soprattutto, non esagerare col pepe. Ehi, stanotte li senti bombardamenti? Infatti, se no sentiamo il bombardamento anche qua a me, tramite in aria. Stanotte dice che nevica, amiche, abbassa a zero e nevica. E come quartino cosa ti bevi, Marco? Canolau? Farito, va, la bocca piena, mangiene a quattro garage, Natali. E allora? Non si degna, non si dà udienza. Non è possibile, ragazzi. E vabbè. Tutti morti, anche stasera. Cazzita. Adesso vado in via San Paolo, vediamo se ne trovo qualcuno di questi CB che sono assenti. Da bere Coca-Cola. E lo mi. Coca-Cola, caspita. Vabbè, andate. Bevi Coca-Cola, bevi. E poi stanotte ti addormenti alle 5 del mattino con tutta la caffeina che c'è nella Coca-Cola. Natali, soli siamo, soli. E allora, meglio soli che male accompagnati, tanto sono tutti a San Paolo con Brasile. E allora, infatti, tutti lì sono, tutti a San Paolo sono. Spolverandosi il marmo. E allora, staranno mangiando brodino di mammo. Non è possibile. E vabbè, uia, che fine ha fatto la 27, che è caduta dentro le cassette. Infatti, dopo il 30 di 11, che poi sta entrando Gianfranco, Gianni, quando non sta lavorando, di sera, però è morto, tutto morto. L'altro giorno me ne sono andato al 23 per la disperazione. Abbiamo fatto quattro chiacchiere, quattro risate e via. Ah, io se non c'è nessuno qua vado là, e perché no? Capita. Il canale è di tutti, per cui se qua è deserto, allora cerchiamo campo d'atterraggio da quell'altra parte, no? Sì, infatti. Per la distruzione, a chi no che da Maria non rispondi a nessuno, e cosa vuoi fare? Ah beh, niente di particolare. E vabbè, ieri sera abbiamo ascoltato, ma stavate parlando di pistole, io dei pistoli non me ne intendo proprio niente, non me ne intendo, e per cui avete proprio dato ma 2 ore e mezzo sempre dei pistoli e di cartucce, e io cosa facevo? Lo sono ascoltato e basta. Poi sono passato al 23, quando avete chiuso, e c'era Bacchisio, c'era e Marino, insomma, un po' la solita greffa, dai. Poco fa c'era Graziano insieme a Luca sera, e mi ha fatto anche 2 chiacchiere lì. Hai fatto bene, avanti sempre, ci avessi per alcuni. Avanti Italia, siamo qua, tutto orecchie, in ascolto, avanti. Chi è questo? Oh, Natali, Fabrizio? Non lo sento a dire la verità io. Deve essere lontano, deve essere. Qualcosa del genere, non lo so, forse in tournée. tournée sicuramente, e arriva bassissimo, non si capisce nemmeno se è Fabrizio o chi è. Avanti italiano, avanti, noi sempre sardi e ce ne teniamo orgogliosi. Italia, troppo basso sì, non compri pa, troppo basso sì, non si capisce, non compri pa, ma cosa ramo mangi? Se non compare di rubare, ma cosa ramo mangi? Gloria, tutti molti, anche PMR e Natali, io ce l'ho acceso adesso, tutti molti. Sì, infatti. E poi magari entrano più tardi sul 23. Può darsi. Accendi anche tu PMR, vediamo un po' se riusciamo a collegarci. Atteso è. Aspetta che io ti chiamo, Nacchi. Attento, Natalio, Nacchi. Io già ti sento, sei tu che non senti a me. Più mi stavi sovramodulando, mi stavi lì, stavo cercando di parlare con Luca perché c'avevo l'antenna mollata del portatile. Per quello che non ti sentivo allora. Natalino? Un casotto . Non ti sento nel PMR, Natalino? Vabbè, forse sei troppo chiuso lì. Figlia, lo so. Purtroppo con quel gommino non mi senti, non arrivo. Io a te già ti sento invece. E come mi senti? Bene, male, come? No, io ti sento bene. È quello che mi dava da pensare, che io ti sento bene e tu a me non mi senti. Luca invece mi sente, tutti mi sentono. Sei tu col gommino che non mi senti, capito? Io già ti sento bene già. Sia qua che là. Ho capito. Vabbè, vuol dire che il gomito tuo non è molto efficace. Va bene. In questa monitor, sentito me, io ti ho chiamato lì. No, non ci sono andato perché devo metterla quella frequenza che non ce l'ho. Ah, ho capito, no, io ce l'ho, schiaccio il tasto e passo automaticamente, capito? Sì, già me l'ha imposto anche io. Beh certo, io ce l'ho impostati tutti e due, tanto più di due non se ne possono mettere, due per volta qua. Sì, infatti. Andare, vabbè, comunque, sia Vesani che Emilio. Via. A Luca lo sentivo a momenti sì, a momenti no. No, io a Luca lo sento bene, lui sente a me. Graziano mi sente. Tutti là, tutti quelli di vicino, diciamo così. Beh certo, vabbè, siete più vicini, io sono un po' più lontano, per quello, il motivo è quello. Vabbè, pazienza, dai. Interessante che ci sentiamo qua, nella 27. Eia. Sì, ti sento, Luca. Sì, ti sento. Sì, già ti sento, il 27 già ti sento. Santiago 7, quasi, ma già ti sento. Va bene, sì, certo che va bene. Andiamo a Lugrivia. Hai tesa a Marco, dice che sta infornando Faini. No, non mi mando mai niente una zionda, no. Infatti già ho detto io, con le cipolle devo mangiare, la farina mi viene a mangiare con le cipolle che è più buona. Ognuno ha i suoi gusti. Andare avanti Natà. Eia. È che non so la farina di ceci, se no l'avrei fatta qua. A me mi si davano una volta, l'avevi rubata il laboratorio e mi recita gusti buoni ai campanini. Auguria, certo. Che poi non è così difficile la farina da fare. Capita. Con un latte, un poco di latte, un poco di ceci. Lascio in mezzo la buona forno, un piccolo di sale, olio e si è a posto. Sì, infatti. Mi dai da gusti buoni, una bella croccante, fino alla fine, a mio momento di piace a me, mamma mia. A me pure mi piace una, ma quando fino a fine ne mangio tre fette uno sopra il posto all'altro, tre fette alla volta. Tu me la dici, allora ti piace che sta più grossa. No, mi piace che sta vino mangiata così. Quando la ordino io da Antonio me la faccio fare così apposta. Buonissima, è veramente buona così. Poi quando è calda, via poco è buona. Lo so. Va bene, solo che la notte magari se uno ne mangia molto può essere anche pesante, con le cipolle perlomeno. Però è squisitissima. E beh Luca, e tu a te di mi mangi, che ti devi di mi mangi di fai niente? Ho detto quante teglie te le mangi di fai niente tu. Ma devo essere sincero, anch'io le mangio poco, non è che le mangio molto, però mi piace moltissimo. E ti dirò di più Natalì, c'è per caso la notte ne avanza qua quando la prendiamo per casa, per, ripeto, perché qua c'è tutto vicino a casa, a 200 metri. E alle volte la prendiamo sia la fene che le pizze, no? A metà settimana in genere. E quando avanzano qualche fetta così, l'indomani mattina, accidenti a singhiotto, ho detto l'indomani mattina me la mangio a colazione anche la taglia, è buona, mi è fredda, è buona. Ma hai mangiato là il giugo rubani? Se non fossi mio qui su, quando ero giovanotto, mi si notto che non fossi mio qui là. Aspetta, oia, se non qui via. Fredda è buona, amico. Ma che? Come male? Ma io ti posso pure in mezzo alla pianata, ti puoi immaginare la taglia, è buona amico la pianata. Ma io in mezzo a rubano, e mi butti il rubanino mi facevo. Pure il rubanino, questo è pagato pure la boccaccina, ha voglia. È verità. Ma questo è quello un bel mi si sta mangiando in mezzo a rubare. Quello è un bel buono, avvio. E noi ci accontentiamo di poco giù. Noi abbiamo vissuto gli anni più critici della vita, quando allora era difficile. Così è. E noi abbiamo mangiato bulgarubba. E lì ci sono civiliati, cazzi droga, non si sanno divertire proprio la gente. Oh, capisci? Divertire di meno una dose, anche che un panino. Quei tempi erano belli, tempi da ragazzo, da giovanotto, spensierato, senza nessun problema, senza pensamenti. E cosa che ti preoccupava? A mangiare, a dormire, a travagliare e a praticare sport. E chi se ne fregava del resto? D'accordo Luca. Natalì, e chi è che aveva problemi allora? E beh, cioè, se sei adulto di una certa età, allora comincia la famiglia, i figlioli, il travaglio, la pensione, a fine mese, la luce elettrica, il telefono, le dassi, mamma mia! E si è tipo di maramo davvero, Candove da bagare. Oi. E se no fa nell'altro, è da pure una bella tazza di vino. Cosa mi dici? Panellato, ma te sì, fini vini, mi tagliato fini vini e poi ci mezzo al bar. No, un vino no, Alice, non mi è mai andato. Beh, queste cose alcoliche non mi è mai andato a genio, la verità, non mi è mai piaciuto. Ma comunque, una lanciata o una Coca-Cola, queste cose così, a voglia. E anch'io, ma già c'era in campagna. Io non è che sono un bevitore lo stesso. però ma niente male che tu l'hai visto una tattista di artiglia. Andai a me, certo. Beh, magari potrebbe mezzo bicchiere di spuma anch'io, dopo un panino del genere. Beh, quello sì. Ma non più di tanto, però, non più di mezzo bicchiere. Anzi, mezzo bicchiere è anche troppo grande. Perché non mi va l'acqua, la verità, non riesco a berlo, ecco. E così lo stesso discorso vuole per la sigaretta, anche perché non ha mai fumato. Ui! Ma io organizzavo così. E cosa volevo organizzare? Ah, ma è nell'altro, è una tazzetta di vino. Buonasera a tutti. Buonasera, ha tagliato a fette sottile sottile, è poco che buono. Voi avete da boccacina e sempre andendo. Buonasera a tutti, a sera continuato me. Oggi non si usa più. Io mi ricordo, fra, che quando era a scuola il professore, finita la lezione, si metteva dietro la porta e si mangiava il panino proprio con il lardo. Cioè, fitabù, me lo ricordo come se fosse oggi, il professor, aspetta, come si chiamava? Nasiddu, sì, Nasiddu. Cioè, fitabù, quando si portava i panini, si portava, forse era in qualche paese, abitava in qualche paese, e veniva qua, stato a lavorare, no? Cioè, finita la lezione, io un giorno avevo dimenticato qualche quaderno in aula, sono entrato così improvvisamente, c'era lui dietro la porta, nascosto, e mangiando il barellaggio. E me l'ha detto lui, sto mangiando un panino con il lardo, e buon appetito. L'altro giorno mi avevo regalato un pezzo di tiredu, ti dico che era veramente buono, era un po' di tempo che non mangiavo l'altro così buono, dolce dolce, qua, era un burro. Ripeti Natalì, buonasera anche a te, poi mi dite anche se c'è altra gente. Cosa altra gente? Solo noi ci siamo, ti dico un attimo, è poco buono io. Sì, senza esagerare, però un bel po', perché già lo sai quando i video non riesci a smettere. Così è giù. Beh certo, già lo credo. No, io sai cos'è, io devo dire che mangio tutto indistintamente, però tutte queste cose le ho mangiate da, soprattutto da giovane, da ragazzo, perché data la mia età, allora i tempi erano quelli che erano, e anche se c'erano i soldi a casa se ne trovava poco di mangiare. Per cui allora tutto ci passava, veramente Natalì, Giuseppe, che cosa mangiamo stanotte? Chi costa questo mamma rivolgendosi a babbo, no? E babbo non risponde, chi costa, che ne so io? Andalo dal sorsese lì, guarda se ci sono delle arenghe, capita, boh, ti puoi immaginare. Eppure i soldi a casa c'erano e venivano un bel puro, un pochino, perché babbo lavorava in proprio e guadagnava molto, ma molto bene. Per dirti, no, fra, in quei tempi, una sedia da tutti, fra. No, anch'io, guarda, qualche anno meno di te, sicuramente, soltanto che mio nonno era, non si ricorda, era macellaio, quindi ha sempre avuto animali, e quindi era una festa, una chiamata al maiale, ci faceva tutto il latte, si conservava le salsicce, tutta roba fatta in casa. E poi mi ricordo del lato, dappertutto lo mettevi, anche per cucinare, in mezzo al minestrone, e tu ero qui l'altro. Già lo credo, in mezzo alla pasta e fagioli, in mezzo al minestrone, dove che lo si metteva, capita. Mi ricordo c'era, quegli anni erano anni difficili allora, no? Praticamente eravamo ancora reduci dalla guerra, si può dire, eccetera. Mia madre aveva messo la pentola, stava facendo il minestrone e c'era la pentola sul fornello, no? Allora si usava lasciare la porta aperta anche così. Signora Marie, rivolgendosi a quella di fronte, e dia un'occhiata a casa che sto andando a negozio a comprare qualcosa che mi è mancata. E vai costa, non ti preoccupare. Quando è ritornata, fra, ci mancava la pentola intera, mezzo cotta e mezzo cruda, da sopra il fornello. E così era proprio quella signora Maria che abitava di fronte. Signora Maria, io, ma penso la mia pena, che bagno romano, il sardo, io non lo so parlare, no, il sardo, ma sai, rispondevano così in cosa, no, con l'animo buono, bagno romano, l'ho presa io, dice la pentola, che non sapevo cosa dare da mangiare ai miei figli. Signora Maria, ma non lo potevo dire prima, adesso che cosa gli per fare a mio marito, che è già l'una meno un quarto e arriva dal lavoro, e fagli fretta in fretta, fagli una pasta asciutta, quella già veloce, da cucinare. Questa è la situazione allora. Però visto, possiamo anche incazzarlo, visto. No, e come faceva a incazzarti? Non è possibile. Con la povertà che c'era allora, lui, come faceva a incazzarti? Oh, c'era più umanità, ci si aiutava uno con l'altro. Poi c'è già mai rimasto di conosci, con quello che abita vicino a te. Infatti, ma queste le cose che ti facevano, questi dispetti, che poi non era un dispetto, poi non erano volentieri, io mi ricordo, mamma, c'era una famiglia dove abitavamo noi, senza di vecchia, no? Una famiglia che tra l'altro era anche, è stato un CB per tantissimi anni e ormai è morto, però non è quello il problema, lo posso anche dire. E mamma gli preparava la pentola tutti i giorni anche per quella famiglia, perché avevano una fame, poveretti, che ne aveva compassione mia madre. E allora, siccome grazie a Dio noi stavamo discretamente bene, perché ripeto, babbo guadagnava molto bene, e allora gli portava tutti i giorni la pentola già cotta, perché quelli non avevano nemmeno soldi per comprare il carbone per accendere il fuoco, perché allora si cucinava col fornello a carbone o fra. Lo so, ce n'era. Non ho conosciuto anch'io, figuriamoci voi, gli altri. Così è Natalino. Allora, ma la una fame, mi sa niente, povera. Così. Non mi ricordo, poi prima mica c'era il frigorifero. Quando si ammazzava al maiale si divideva con tutto il vicinato. E non so, una settimana si ammazzava uno e si mangiava tutti. Poi dopo un po' si ammazzava quello dell'altra famiglia e si divideva quello. E così ce l'aveva avanti. E ma prima tutti si aiutavano, non è come adesso manco ti salutano. Lo sai che si devono offrire da bere, fatti il conto. È proprio così, ormai le persone in gamba si contano noi dalle mani qua. Frigorifero, cos'era questo frigorifero in quei tempi lì, per carità. Vabbè, in estate andavamo da zio Ico a comprare il pane di ghiaccio, no? Compravamo e si metteva quello, quando dovevi andare al mare ad esempio, no? In estate, da Icomasia lì al mercato, allora facevano il ghiaccio, facevano, che poi tra l'altro è anche un mio parente, però è morto ormai da tantissimi anni, e prendevamo ghiaccio lì, ecco. Quello era il frigorifero fra. Mi ricordo, d'estate lo facevano anche in campeggio, mi sotterravano un frigorifero di quelli vecchi, funzionanti, e ci mettevano dentro questi blocchi di ghiaccio e poi dentro la roba, e chiudevi il frigo, è stato terra, è stata la sabbia. Infatti, così, dentro il contenitore, il frigorifero, così, ci mettevi il blocco del ghiaccio, ci mettevi, e ti rinfrescava lo stesso l'acqua, soprattutto perché sai, in estate c'è sete, non c'è niente da fare col caldo, però allo stesso tempo ti manteneva bene anche il mangiare, non si guastava, e se no, a quando andava il pranzo il mangiare dovevo buttare, perché nemmeno il cane l'avrebbe mangiato col caldo. Oh, questi proprio frigoriferi grandi, frigoriferi veri per casa, però da buttare, li sotterravano e lasciavano solo lo sportello fuori, no? Sotto la sabbia e lo sportello fuori, e lo riempivano di blocchi di ghiaccio, e duravano parecchi giorni, la roba fresca. Beh sì, certo, già lo credo che durava, quando era chiusa la portiera del frigorifero di casa col blocco di ghiaccio durava, sì, funzionava, altro che se funzionava. E mi ricordo andavamo lì, mi mandava mamma, Giulio vai a comprare il ghiaccio da zio Ico, e già vado, andavo lì, quando quando uscivo non entravo mai prima di un'ora. Ci ha impiegato per me perché abitavamo vicini al mercato, allora c'era il frigorifero del mercato che facevano un ghiaccio, no? Vabbè, io con zio Nicolo stavo parlando e scherzando con i figli eccetera, e succedeva quello sempre. Mamma mia, fai fretta a venire che mi occorre un ghiaccio, e oia, fretta vera, vera, da buon un'ora tornavo. Non ero pronto ancora il ghiaccio, lo stavo facendo. Noi a volte lo prendevamo da Riveccio a Porto Torres, quando andavo in campeggio lì a Pestino. Avanti, Natali. Allora, è quasi il viaggio diretto. Prima era il ghiaccio, da qui a Pestino. E allora, sei altri tempi, mamma mia. Mi ricordo, una volta eravamo accampati con degli amici e mi arriva questo... Un attimo, che stavo chiamando, riprendi Natali. E scappa. Allora, Natalia. Contava sempre, quando mettevo, dice, la moneta da 500 euro, la moneta che valevano come 500 euro, 500 lire, quando la buttavi sul banco tutti quanti si giravano, i clienti che c'erano, perché sentivano, lo capivano dal rumore che faceva, che erano 500 lire o Natalì. Poi quanto vale essere preciso, cosa ne so, io ero un ragazzino, non lo potevo sapere. Sei in possesso d'argento? Sì, d'argento, allora una moneta d'argento era. Quando uno la buttava sul banco, no, che la metteva adesso, faceva un rumore particolare, faceva. E tutti i clienti che c'erano nel negozio o dove eri, si giravano per vedere chi era questo che aveva messo la moneta d'argento. 500 lire. Allora 500 lire valeva una fortuna quasi, per cui ti puoi immaginare, valevano tanti soldi, ma guardi oggi, oggi senti grossi numeri, grosse cifre, e gli erano valeva niente, infatti tutto il fumo e niente arrosto. Davvero mi... E così faceva quando era pronta a casa, quella che aveva rubato la pentola dal fornello a mamma, e quella tutti i giorni per farsi vedere che stavano bene, invece va via la fame, chi se la bia la bettola se la bria, così si diceva una volta. E avevano questo cucinino, no, in questo cucinino c'era una gratta, c'era, con un pezzo di rete, nata lì. Da lì usciva tutti i giorni questo fumo, e cos'era? Che aveva un figlio che lavorava in macelleria, il figlio gli portava questo grasso e loro lo mettevano sul fuoco e tu non vedi altro che lì tu fumo, sembrava che avessero tutti i giorni carne, e invece non va bene, manco pane fa mangiare, nata lì, solo fumo e buono. Così la bittorra la lavavo. La curiosità, ma cari dai, mi ricordo che la famiglia Malungiu disse lì che a Sassari, ma cari, siccome era una famiglia questa, no, che avevano, abitavano madre, figlie, c'erano tre figlie, c'erano donne sposate e con figli anche, e c'era un falegname di Sassari, uno che aveva nella faccia aveva una macchia, una voglia, sicuramente l'avrei visto tante volte, perché hai avuto il tempo di conoscere anche quello, Natalia. E questo era un falegname che stava discretamente bene, ed era amico di questa famiglia, e tutti i giorni andava lì con la borsa sotto il braccio, e sai cosa ne batte una lì? Dice adesso lo facciamo cadere e gli prendiamo la borsa e lo portiamo all'ospedale, perché secondo lui si vedeva male. Cosa avevano fatto? Hanno fatto una pasta asciutta, l'acqua l'aveva fatta, l'hanno presa e l'hanno buttata davanti al gradino a casa sua, per terra. Poi dice quando va via, perché andava via sempre verso l'una, la notte, così, no? Scivola e cade, si fa male e noi prendiamo la borsa e lo portiamo all'ospedale. E invece se Isidro riesce a arrivare al rito come mettere una birtica o Natalì, arrivi lui, il capofamiglia di quella casa, ed era mezzo tutto, come da posto non vede nato mai, ma all'ingresso è tutta la cipollata, ha truncato il golletto. E sono entrato giù. Ok. Quante storie allora, Natalio, non era possibile, non era possibile, altri tempi, altra armonia, altro modo di vivere, eccetera. Oggi invece, se non sei attento, ti ripigliano i mutanti e sei pugliati, Natali. Allora, altri tempi, dei tempi che furono. Oh Giù, ti stavo ascoltando poco fa, di quel tipo che metteva ballando a far piaggio. Quello che aveva rubato quella famiglia che aveva rubato la pelle alla mamma. No, per farsi vedere gente importante, gente che non aveva bisogno, invece avevamo fame, ma noi li conoscevamo bene e poi si confidavano anche con mamma. Abitavamo uno di fronte all'altro, nella solita strada, nella stessa strada. Tante volte gli chiedeva dei soldi a mamma, mamma glieli dava perché era una donna anche molto di buon cuore, oppure gli chiedeva a nonna, perché nonna abitava a 50 metri dove abitavamo noi, gli chiedeva, zia di là, me ne prenda tale cifra per dire, quella glieli dava tranquillo, e ci rivedeva più già di ritorno, mai più. E poi signora della mia, vedevo così, vabbè, non ti preoccupare, ma li te ne dici già che non so quale subunto io, perché ripeto, la famiglia di mamma, di babbo stavano bene, non tanto quella di mamma, ma quella di babbo già stavano bene. E da lì è nato il detto, tutto fumo niente arrosto, così. Allora, niente fumo, niente fumo, cioè niente arrosto e tutto fumo. Un bel fumo e arrosto niente. Avevo questo ragazzo che era un garzone, il figlio di questa donna, lavorava in macelleria, magari gli davano una miseria, forse viveva solo dalle mance, perché andava e portava la carne ai clienti, così in giro, e prendeva il grasso, la ricava, e buia la gravidia, la fa fumo. E tutti i giorni, questa era la storia di tutti i giorni. La fame, brutta cosa, No, anche io, grazie a Dio, anche a parte di mia madre. Forse i miei primi anni, quando c'è la guerra, qualcosa un po' l'avranno riconosciuto un po' di fa, ma poi con tutti quegli animali che avevano, la carne c'era sempre, ormai la scambiava con qualche altra cosa, barattava prima, no? Certo, tempi brutti erano, eravamo appena reduci dalla guerra, per cui devo immaginare, perché la guerra è terminata nel 45, per cui tu puoi, poi a quando riprendersi l'Italia ci sono passati anni, per cui ci è voluto molto tempo prima di vedere un minimo di buon vivere, di benessere, per carità. Mai ne venissero di quelle cose di guerra eccetera, perché poi ci vogliono anni e anni e anni per recuperare la vita decente, per carità. Babbo lavorava in proprio, allora c'era bisogno di scarpe, non faceva degli zoccoli di legno, faceva tutte le settimane, partiva a Cagliari e riportava lì, portava due o tre valigie piene di zoccoli, portava e navigava lì di là, capito, fra? E in pelle, come li faceva? Legno e pelle? No, solo legno, babbo era falegname, no? Faceva il legno, poi loro ci pensavano a mettere la pelle o quello che era, però guadagnava bene, perché ne faceva parecchi in una settimana, e caspita, ma io mi ricordo, stava anche fino alle 2 del mattino lavorando, sai, una volta presa di quanto era stanco, caspita, è anche svenuto, però li doveva consegnare perché le facevano l'ordine, le facevano, no? Queste, e ha lavorato di quanto era stanco, anche svenuto durante la notte, alle 2 del mattino. Hai visto, per mantenere la parola data. Allora, per mantenere la parola data, per forza, anche perché tutte le settimane lui portava queste scarpe a Cagliari, tutte 3 settimane in accapimento, vediamo il treno e via a Cagliari. Anche 3 valigie, piene, ma la valigia è molto grande, molto grande, tutte ben sistemate queste scarpe, e oltretutto anche pesante, perché il legno si sa pesa anche, no? Però lo portava e basta. Secondo il legno era, pesava sì. Già lo credo, non lo so di che legno era, io ero piccolo allora, non è che lo potevo capire che legno era, boh. Io mi ricordo, c'erano i tavoloni in bottega, uno sull'altro, no. Io mi coricavo sui tavoloni col giornalino di Sciuscià, il grande Black, che ti giornalini così. Allora esisteva Sciuscià, era il mio giornalino preferito, era quello, fra. E cosa faccio io non è che facevo niente, non era fino. Io mi ricordo Tex, Zago, queste cose così. Sì, e beh certo, Sciuscià, Pecos Bill, Tex, e tutte queste cose qua, a me mi piacevano molto, sai, quando eri bambino, cosa facevi? Sempre con questi giornalini, e poi magari incontravo gli amici e giocavamo con le monetine e scommettevamo i giornalini, oppure facevamo lo scambio, no? Perché c'erano altri compagnetti allo stesso tempo che anche loro avevano i giornalini, no? Una volta che li leggevi poi li facevi girare così. Certo, lo facevo girare, è chiaro, lui scambiavamo i giornali, scambiavamo, oppure ce l'avevamo in prestito, però ne avevamo, non sapevo più dove metterli, perché ne avevo cassetti pieni di giornali, perché me li comprava sempre il babbo. Io quello che riciclavano dai miei zii, anche roba di calcio mi ricordo, tipo Intrepido, se non vado errando. Sì, Intrepido, ma quelle sono venute dopo, quei giornali lì, Intrepido è venuto molto dopo, io ero già un po' più grandetto, ma proprio da ragazzino mi ricordo, Sciuscià, per me era Intrepido, già la cosa, sì. Andavo a giocare per dire con le strada, no? con le palline, quelle di terracotta, eccetera, e col giornalino in tasca di Sciuscià. E cosa trattava come argomento? Dove era ambientato? Sempre tutta roba western, sempre roba di indiani, eccetera. Ok, no, quello non me lo ricordo. Oh, c'è un collega che lo chiama, il soprannome Sciuscià, ma non so se si è riferito a qualche quartiere di napoletano, oppure a come dici tu a questo vecchio giornalino. Era il titolo di questo fumetto così, no? Di questo giornaletto, allora era. Però forse era il più noto, il più in voga in quel periodo, io sto parlando con un ragazzino, tu tieni presente che ho quasi 76 anni, si può immaginare, quando ero ragazzino quanti anni fa c'era questo giornale, adesso penso che non ci sia più, adesso già da anni penso che Sciuscià non ci sia più in edicola, boh. Hai visto? Lo sto guardando su internet, lo sto guardando. Ok, beh su internet qualcosa ci sarà, qualche illustrazione ci sarà, non lo so. Vabbè, avanti Natalì, e tu a Balocci un grado vai, a pure Besciolina, te la metti di Natalì. Sì, gli ho preso, via, quasi un gatto. Con i monetti a quelli di Arumu come si chiamava. Chi era al Goso, allo Varavara, come te, no, chi c'era con i figurini, allo Varavara, te la metti. Appoggiavamo una linea sul muro, da quell'altezza doveva lasciare andare la figurina e sotto doveva cadere l'una sull'altra, se cadeva l'una sull'altra vincevi la figurina dell'avversario, te lo ricordi la taglia? Bei tempi. Ti ho inviato una cosa giù. Che cosa fra? Non ho capito. Ti ho inviato un'immagine a vedere se ti arriva, su WhatsApp. È acceso il telefono, già è acceso, adesso ancora non ho sentito l'arrivo, ma dovrebbe arrivare senz'altro. No, mi dice che ti è arrivato, mi dà due barrette. Aspetta, forse allora stavo parlando e non l'ho sentito per quel motivo, aspetta che guardo un attimo, sta caricando. Tocca linea, sai? Qui la linea è scarsa, soprattutto quando piove. Sì. Ante, bovie, la Sciuscià, gioia. Era quello il fumetto? Sì, però trattava soprattutto di traffico di indiani, eccetera, sai. C'è un po' di tutto qui. Sì, però il titolo è quello, Shusha, così, con l'accento sulla... Vedo che c'è, insomma, roba di guerra, una pantera, base alle copertine che vedo. C'è un po' di tutto, boh. Se vedi da pochi. Sì, io credo che ce ne sono, sì, sì. C'è anche un basso. Oh, yeah. Oggi ho un leggero mal di schiena, ce ne faccio, forse il freddo che mi ha fregato. Beh, anche io giro un po', la sentivo tirare un po' la schiena, perché sicuramente è il freddo. Ti prendi la salita. Ah, oggi grande nevicata, dice, la notte. Ehi, infatti abbiamo messo già le catene, mi parlo giù. Però già da giovedì hai messo 18 gradi, quindi passiamo da 0, da meno 1 a 18-19 gradi di giovedì pomeriggio. Figurati. Ma dice che stanotte dovrebbe nevicare. Già in giro, nell'Orese ha già nevicato, stava nevicando. Sì, tutta la Gallura anche. In Gallura è tutto bianco, già lo credo. Sì, ma dovrebbe, a quanto dice il meteo, ho seguito che in questi giorni dovrebbe arrivare anche i 200 metri sopra il livello del mare. Se è così, almeno Sassari, nella zona alta, almeno dovrebbe vedere la neve. Non lo so se ce la faremo, buffa, vederla. Qualche spruzzatina è probabile, ma non dura perché, ripeto, da giovedì arriva già l'alta pressione e quindi sbaglia tutto. Dobbiamo far male un po' di neve anche per l'acqua, amico. Sì, per l'acqua e anche per ammazzare certi virus, perché il freddo li distrugge, li ammazza, e per cui sarebbe una cosa anche buona, anche se devo dire poi per la circolazione è un problema. Cazzo, mi ricordo anni fa quando aveva nevicato, avevo parcheggiato in via Pietronica lì, quando sono andato al lavoro, perché davanti a Bottega non c'era parcheggio, nella strada all'incrocio lì in via Pietronica, in molto in discesa lì. Cazzo, lo sai che mi sono fermato, no? Continuavo a scivolare, col piede sul freno, e continuavo a scivolare, perché c'era il ghiaccio, c'era. Ho dovuto accostare al marciapiede e ho puntato le ruote sul marciapiede, se no la macchina se ne andava. Anche col piede fermo, sul freno, e piano piano stava scendendo. Meno male che me ne sono accorto prima che scendessi dalla macchina, se no magari che se ne andava contro su la macchina. Allora ho accostato e ho girato le ruote al marciapiede, allora lì già è rimasta bloccata. Il problema è che non hai fatto danno, dai, all'avantreno. Cosa puoi fare? Cosa puoi fare in quel caso lì? O te ne vai dalla discesa, c'è chi parcheggio magari in pianura, oppure devi sempre forza fermarti lì appoggiato al marciapiede. Piano sta bene, dai. Io mi ricordo da ragazzo, in una curva io giravo a sinistra e la macchina andava dritta. via Tavolara, dove c'è una specie di S, dai, dove c'è il capolinea dei pullman, anzi dove c'era. Ok, ho capito, sì. Sì, c'è per quello, mia moglie mi ricordo, allora eravamo anche fidanzati, però non eravamo ancora sposati. Salendo in via Castelvetta, allora aveva la 850, aveva una 850 a berlina, no? Salendo via Castelvetta, chissà come andate, è cominciato a slittare, c'era la neve, o meglio il ghiaccio, e gli si è messa la macchina di traverso. Proprio rimasta di traverso. Meno male che è rimasta di traverso. Se no volevo vedere come avrebbe fatto a fermarla. C'è scesa, è venuta da me in bottega, giù la macchina così e così, non lasciate in mezzo strada, che a posto siamo. Sono dovuto salire io a prendere la macchina. Come stai, enorme. Alle volte proprio. Eppure per la fila mi guidando, però la paura è micidiale. Quando entra nel panico poi alla fine mollano tutto. È la trazione posteriore, era? Sì, allora sì, la trazione posteriore, allora. Io invece anche uscivo, siccome abitavo da mamma, allora ero giovanotto praticamente, abitavo da mamma, cosa facevo? Nella piazza lì dove abitava mamma, adesso purtroppo abita al cimitero. E tutti quanti andavano a partire, non riuscivano a partire la mattina presto per andare al lavoro. Io cosa avevo fatto? furbescamente e magari anche un po' stupidamente, avevo sgonfiato un po' le gomme e poi sgonfiato e ci uscivo tranquillamente dalla piazza e ho continuato, sono arrivato al lavoro. Come per la sabbia, dai, perché per la sabbia quando ti incagli un po' qualcuno di strada, è un trucchetto da fare, è abbassare le pressioni del... anche a meno di 1,08, non molto, se lo rischi di stallonare poi. Sì, infatti è così, sì, perché a un certo punto la macchina si abbassa, la gomma si abbassa, si allarga e il battistrada, allora aggancialo e riesci a muoverti, diversamente non ce la fai. Aumenta la superficie di appoggio, capito? Quindi riesci a galleggiare meglio sulla sabbia o sulla neve. Bisogna essere buoni a camminare sulla neve, se no è un problema. Io ho visto, salendo a campagna con la macchina normale, il fuoristrada tornavano indietro ed io sempre andando, salendo a campagna. Anche fuori strada, una volta io ho provato a salire a Usilo, era ghiacciato però, ho girato subito, la macchina andava per i fatti suoi, non vuol dire nulla. Infatti bisogna sapersi camminare sulla neve, io senza ribono sono sceso in montagna, sono sceso per andare a Bono, senza ribono un'ora con la neve. Ci vuole il piede di velluto, leggero leggero, senza dare colpi o frenate brusche, tranquillo tranquillo. Adesso che hai parlato di Oslo mi hai fatto venire in mente l'avventura di una volta quando ero giovanotto, che ancora io non avevo nemmeno la patente, avevo il foglio rosa, avevo deciso insieme ad un amico che lui era già patentato di prendere una macchina a noleggio lì in De Monte, se mi ricordo che si chiamava quello lì, dove c'è Conforama adesso, lì che via è quella? Corte Santa Maria, volevo dire, non Conforama, Corte Santa Maria, c'erano delle case basse, non so se ve lo ricordate, e c'era anche un noleggiatore di auto, avevamo preso un maggiolino, e siamo finiti a Osilo, una greffa col maggiolino e una greffa con un 1500L, perché eravamo una greffa molto, molto numerosa, no? E ci siamo scesi in una discesa, che non so quale via è questa, non lo so, a Usilo, proprio in una strada. Beh, ti dirò che a salire poi in quella salita è stato molto ma molto difficile. Col maggiolino siamo saliti tranquillamente, senza nessun problema. Col 1500L non ce l'ha fatta. Siamo dovuti intervenire tutti quanti, quelli che eravamo seduti sia in una macchina che nell'altra, mentre partiva il 1500L abbiamo dovuto anche spingere, perché se lo slittava non ce la faceva per salire. Il maggiolino era una bella macchina, e tuttora, guarda, ancora ti fa battere il cuore quando la vedi. Il maggiolino è una bella macchina, sì, curiosa. Un topo sembra, magari, come fatto, però avevano una forza micidiale, un'aderenza dalle ruote motrici non indifferente, veramente. Mentre invece con 1500L era di un ex autista, un certo Cabeccia, che allora aveva, in quel periodo aveva lui anche la 600 multipla, e lavorava, faceva l'abusivo, no? E si fermava di solito lì a Santa Maria, dove c'era Aruni una volta, al bar Aruni, stazionava lì e tutti andavano lì a prendere questo taxi, diciamo, no? E però aveva anche la macchina da passeggio ed era il 1500L, e poi la prendeva il fratello, la dava al fratello in prestito naturalmente, e noi facevamo i signori, tu ci vedevi salendo al corso, con la macchina a tutto volume, la radio, e con questa macchina, con i pilettini tutti aperti, sai, in piena estate, la macchina bella, blu, bellissima, sembrava la macchina del presidente di provincia, o meglio il presidente della Repubblica, una bellissima macchina la fa. Prendi gomma, là. Prendi in gomma. Con la macchina di latri. facevamo la colletta per mettere la benzina e andavamo in giro, andavamo con questa macchina. Intanto il padrone proprio lavorava con la 600 multipla, dunque lavorava anche la domenica, ti puoi immaginare. E che radio c'erano? Poche radio trasmettevano, oppure l'ascoltavate, neanche i nastri non ce n'erano ancora, bu. Oh, e a Bate c'era Radio Monte Carlo, c'era, era Rai, Bate, non è che c'erano queste radio private di adesso, no? Oppure mettevamo qualche nastro, allora c'era il nastro, c'era, no? Non è come oggi c'era addirittura la pennetta USB. Non mi ricordo, quale mio padre c'aveva le stereo 8, erano quelle cassette da un palmo di lunghezza, però ci stavano un po' di canzoni, c'aveva 5 o 6 piste ogni nastro, c'erano molte canzoni, mi ricordo. Sì, ma io ne ho ancora dei nastri, e stereo 8 ne avrò almeno una decina, e tu mi dai, ma dove la fai funzionare, perché ormai il stereo 8 apparecchiature non esistono più. E beh, io ho anche l'adattatore che si mette sullo stereo 7, si mette e posso far funzionare i nastri serie 8, ti puoi immaginare, e ce l'ho da tantissimi anni, tanti anni. Io non so, penso che mio padre ci abbia buttato tutto, non ricordo più di... però ne aveva parecchie le cassette, sì. Lo stereo era Voxon. Voxon, tutti quanti avevamo quello, Voxon, certo, io lo credo. Io sempre quello, negli anni 40, verso il 43 così, cioè, non 40, cosa sto dicendo, dico 42 anni fa, 43 anni fa, avevo l'autoradio che c'era anche il baracchino, tutto inserito nello stesso apparecchiatura, Ofra. Qualcosa su internet ho visto, però non l'ho mai visto di persona. Io ce l'ho avuto, mi ricordo allora con baracchino l'avevamo pilati, con l'antenna della radio facevamo funzionare anche il baracchino, avevo altri stili, li inserivo, tiravo su, allora l'antenna era elettrica, della macchina avevo l'antenna elettrica, tiravo su e poi ci aggiungevo uno stilo o ci aggiungevo di una certa misura, tarata appunto per il baracchino, eravamo tutti pilati perché non c'era allora concessione o qua. Però già c'aveva il barrino della frequenza. Esisteva già da anni, Io che sono entrato nel 46 anni, nel 1972, 46 anni fa, cosa mi viene in mente questo 42? 42 è l'età mia, quando sono guardato io. Capito qua? Nel 1972, stavo parlando di quel periodo lì, 72-73, avevo quella radio lì, avevo col baracchino inserito, o meglio il baracchino, c'era anche l'autoradio. Sì, molti poi modificavano quelle antenne, quelle fruste lunghissime, che addirittura le piegavano e le agganciavano a un gancetto nella grondina, non so se ti ricordi. Io avevo forato la macchina, no? Avevo messo l'antenna elettrica, da dentro stesso la facevo funzionare, no? Si tirava su da sola, però poi quando dovevo usare il baracchino me ne scendevo e aggiungevo un pezzo di stilo, secondo l'esperienza di allora andava bene, comunque funzionava il baracchino così. Mi ricordo una volta lì in piazza del Retramento, eravamo andati in greffa, io, Tore Alla Verde, Buonanima, Aldo Perseo, che sarebbe il cognato di Aldo, di Coso, Bruno Lagano, insomma tanti altri, non eravamo 7 o 8, eravamo, perché c'era questo che metteva sempre portante, no? Ma io che andiamo a cercarlo, andiamo una batosta, questo qui, eravamo lì in piazza del Retramento, e quando ci sfatteva, tutto imbecille cominciava, no? Però ci diceva proprio parlace, guarda che tu adesso stai passando attorno alla macchina, quelli vuoi, vieni a prendermi, vieni. Capito? Ci fatteva anche, era nella zona di Piazza Sventramento, lì, ex Upin Vecchio del Corso. Sì, ho capito. E quanti canali aveva? Pochi? 23 canali, 23 canali. No, però mi sembra che avesse un 3 canali, mi sembra, e sceglivi tu i quattro da mettere. Sì, c'era anche questo, per quello c'era anche 6 canali, quello, e mettevamo i quarti. Allora, quando dovevamo andare nei calari più alti, io avevo una serie di quarti, infatti ce li ho ancora, da qualche parte ce li ho ancora i quarti, e dice andiamo al canale 45, mettevamo i quarti perché c'era il quarto di ricezione e di trasmissione, no? E sempre col baracchino aperto eravamo sopra in quel periodo, perché allora c'erano portanti, c'erano sai tante, allora per sfuggire agli altri, io sempre con la macchina a mezzo, ma cambiando quarti. Non mi ricordo dove li prendevo i quarti, c'è da Fusaro, boh. Non mi ricordo dove li compravo i quarti, ma la GBC, non mi ricordo. Da Fusaro anche la GBC ce l'avevano, certo, sì. Mi ricordo, è una coppia di quarti, mi sembra, se ricordo bene, allora in quel periodo me li facevo pagare intorno alle 5.000 lire, allora c'era la lira, no? Una cosa del genere, una coppia di quarti, ricezione e trasmissione. Non era poco, Non era poco, no, infatti se ne abusavo per quel motivo lì, sai, parlo di quello della GBC, da Fusaro magari costavano un pochino meno, ma diciamo che eravamo lì stesso, non è che c'era poi questa grande differenza. Così, vabbè, ci si divertiva, dai, avanti Natalia, scusa il ping pong. Sì, già siamo qua ascoltando, non c'è problema, via. E abbiamo fatto anche noi quelle cose. Infatti, perché non era fatto? Io mi ricordo, il primo portatile c'era solo un canale e poi ne aveva due liberi. E avevo preso, mi sembra, l'11 e il 23, dei canali dove c'erano i miei amici. Io ne ho uno ancora che ha tre canali, e c'è il 7, il 14 e il 23, quartato sempre. E c'è un'antenna lunga, senza esagerare, sarà minimo sarà 1,60 m, 1,80 m a conocchiare, no? Quando ti viene su tutta, pesa più l'antenna che tutto il baracchinetto. Mi ricordo, qual era uguale al mio? Era un Inuit per caso, tre canali? No, la Fayette, il mio tre canali. L'Inuit avevo da base, il baracchino da base, comprato da Costantino Fara, mia principessa Maria, mi sembra che era qui lì in quel negozio, vendeva, avevo comprato lì l'Inuit, avevo comprato con tanto di radiosveglia, c'era tutte queste cose qua, dai, orologio, eccetera. Avanti Franco California, buonasera. Stiamo lamentando i vecchi anni della CB, eccetera, un po' di tutto fra. Sono in compagnia di Franco, e poi c'è anche Natalino. Vai Franco, Franco del Monte, del Monte Alto, perché siete tutti e due al Monte, Monte Alto, vai Franco. Sì, ciao Franco, penso che mi ascolti, sì. E anche qua, sei in zona rossa. Penso sì, sul 9.30 qua, dai. Io diversa da quella di ieri, ieri era più bella. Vero? Sì, via. Guarda, la garuzia. No, era più chiara ieri. Va benissimo, qui da me va benissimo, ma andava bene anche prima, per me andava bene anche come era prima, solo che siamo più lontani fra, per cui è normale, però va benissimo così, non ci sono problemi. Vai Franco, parte bassa. No, anche qua arriva bene, non so se sento un leggero reverbero, un po' di eco, non so se sia così. Comunque anche io sto usando un'antenna autocostruita, grazie anche a Giulio, il progetto me l'ha dato Giulio. Ecco, io ti ascolto benissimo, quando bene. È apparato che ha parlato lei, te lo puoi dire? Beh, anche quello l'ho avuto qualche anno fa, eh. Ehi, pedale di questo, eh. Pedale di questo, eh. Anni 70, quello 70, sì, fine 70. Ma, di questi ne ho due, figurati, un Samurai e un Galaxy, Super Galaxy. L'MX500S cos'era? L'irradio? No, io avevo avuto l'irradio, l'omologato. Sì, 34 canali, però non lo trovo più, lo so dove siamo da finire. Mi sa che avesse la rotellina, i canali erano sullo stesso. Poi avevo un pace, mi ricordo, avevo avuto anche un pace 8030. Poi tutto, dai, avanti giù. Ok, sì. Sì, ce l'ho avuto anch'io il 500S, o fra, ce l'ho avuto, sì. Poi l'avevo dato mio fratello, lo utilizzava nel camioncino che quando portava le bombole, aveva il negozio delle bombole. E poi non so che fine ne ha fatto fare. E avevo fatto una piccola modifica nel commutatore dei canali, avevo spostato un filo, avevo spostato da una saldatura all'altra ed erano diventati, anziché 40 canali, erano diventati 52 canali, perché avevo usufruito del 8 o 9 canali di sotto o fra, capito? Per cui l'avevo modificato così, andava molto bene, molto bene. Vabbè, comunque, te la lasciamo. No, io anch'io ce l'ho un Galaxy 2, in questo momento sto usando un 360 Superstar, sto usando, ma all'incirca il Galaxy 2 stesso, è praticamente come il Pluto, eccetera. Il 44 ce l'ho sempre di fra, quello che mi hai dato tu. Sì, che lo uso, ogni tanto lo uso, anzi è acceso, tutti i giorni è acceso, sempre, anche in questo momento è acceso, solo che senza l'antenna, perché uso questo, capito? Ah no, ma l'antenna che ho va bene lo stesso, non ci sono problemi, e a voglia, aspetta, è un amore, quello lo uso soprattutto in estate, quando c'è preparazione. A 27 550 555 quella zona lì, tutti i giorni c'è propagazione, è una meraviglia. Oppure quando mi viene voglia di fare ascolto in 40, in 20 eccetera eccetera, no? Anche lì sì, è sempre nuovo, è proprio, sembra uscendo dalla scatola, sempre nuovo, perfetto, al massimo. Ok, appunto, e adesso sono già passati insomma di 4 anni, una cosa del genere, è vero qua. Appunto, sì che, no, io lo accendo tutti i giorni, anche se non lo uso, però quando accendo il tavolino, quando attacco l'interruttore qua, che accendo l'alimentatore, si accende tutto, si accende, non solo quello, si accende tutto veramente. Ok, vai Franco del Monte Basso. Sì, ho sentito un bip, non so se qualcuno vuole entrare. Anche io ogni tanto li faccio girare, è sempre meglio farli scaldare un po', anche specialmente quelli a valvole, così è giusto. No, è transitorizzato, il 440 è della Kenwood, è un professionale, no? Con tanto di filtri, eccetera, accordatore antenna entro contenuta, insomma è un bel apparecchietto, datato però è perfetto, va molto molto bene, chiarissimo, e quando lo uso mi sento anche molto bene, poi è potente anche il coso, pensa che l'importante arriva a 150 watt, per dire, no? Anche se io poi lo uso con 10 watt massimo, quando lo uso forte, con potente forte lo uso massimo 10 watt, ma se no lo uso anche di meno, fra, le prendi in fra. Sì, no, intendevo dire quello che ho io a valvole, meglio che lo attacchi più spesso, sì. Avanti, Natali. Signori, io vi devo lasciare che devo fare qualcosina qua là. Vi ha tolto il finalino sul chilo. Ciao a tutti, là. Ok, ciao Natalino, allora, grazie per la chiacchierata, ciao Franco, grazie anche a te per la breve chiacchierata e grazie per essere entrato a salutare. Fate sentire, stasera ci siamo, magari un po' tardino, perché ormai abbiamo preso questa abitudine di entrare tardi, però diciamo che bene o male. Se non c'è nessuno, fai chiamata, che sicuramente c'è sempre qualcuno in ascolto, almeno io, Natalino e Marco Condor, ci sarà sempre in ascolto e qualche altro, per cui va bene così. Ok, ciao di nuovo a tutti e due, avanti Franco del Monte Basso. Sì, ciao Franco, allora che nessuno abbia sentito, e ciao anche Natalino, buona carica, penso entrambi, dai, ti prendi giù. Ok, sì, sono già circa le 8, dunque stanno molto, anzi aspetta, scusa che mi apro la porta, perché se mi chiama mia moglie, di solito mi fa scordare il telefonino, se mi chiama dalla tavernetta non la sento, apro la porta un attimino. Avanti. Ecco qua, ho aperto la porta e quando fischiano non entro mai, lo fa tutti i giorni, rimane sempre l'ascolto, ogni tanto si fa la fischiativa, si fa la... Lasciamo fischiare, non lo so che zona sia, qui non arriva molto bene. Anche da me è bassissimo, molto ma molto basso, cosa arrivo a Santiago 2, una cosa del genere, però il fischio lo sento lo stesso, già ho una buona recezione, per cui lo sento lo stesso. Avanti il fischietto, facci sentire qual è il tuo tono di voce. No, non ne ho voglia, è timido, è timido, questa persona è timida. Sarà vuoi fare, purtroppo è così, non hai coraggio di entrare, pazienza, dai. Lo troverà un altro momento magari. Prima o poi prendere coraggio, guarda che non mangiamo nessuno, puoi entrare tranquillamente e chiacchierare insieme a noi, che problemi ci sono, no? Anzi, fastidio non ce ne dai, anzi, apprezziamo anche le persone che si presentano, tutte le persone che si presentano, anche i maleducati, magari i maleducati li mandiamo al diavolo, però li ascoltiamo lo stesso, vero Fra? Sì, noi accettiamo tutti, dai, non siamo razzisti. No, assolutamente no, già lo credo. Ui, è così, Cosa dire Fra? Boh, non lo so, ho esaurito gli argomenti, anche se erano argomenti un po' così. Ehi, abbiamo chiacchierato abbastanza stasera, abbiamo risumato un po' di voti da sottoterra, vecchie tradizioni, vecchie danze nel mangiare, nel tutto. Invece io sto uscendo sempre uguale, l'antenna sta sempre andando bene. Ah, meraviglia, caspita, ti ho detto quella, l'antenna ormai quella è già colloratissima, problemi non ce ne sono qua, alla grande, tu considera che anch'io ce l'ho bassa, anch'io ti sto semplicemente con questo di polo, Santiago 9, Radio 5 è perfetta, è fortissima, non forte, no, fortissima, chiarissima, bellissima. Sì, non sono neanche al massimo, siamo a tre quarti il mic gain e tre quarti anche il microfono. Sì, va benissimo qua, non ce ne sono problemi, veramente bella, una bella radio, chiara, pulita, senza rumori di fondo, niente, veramente niente, molto molto bene. È sempre nella stessa posizione l'antenna, o non l'hai mai portata su in alto, no? No, purtroppo è sempre lì. Infatti un po' l'augurio ci sarebbe di portarla su, però non lo so. Anche perché non riesco a sentire Alghero, purtroppo mi manca Alghero. Anch'io ho quel problema, Anch'io per Alghero ho quel problema. Prima lo sentivo, anche se basso, però riuscivo a sentirlo e a farmi sentire. Invece adesso con l'antenna bassa così, perché, ripeto, la mia l'ho abbassata da dove c'era la mantova, a questa autocostruita adesso ci sono almeno 5 metri, 6 metri di altezza in meno, per cui non va come l'altra, ecco, l'altra aveva un'altra porta. Però diciamo che in estate penserò di metterla al posto suo, quello originale, così per dire, no? Allora si può fare, ma adesso l'inverno non ne vale la pena, va bene così. Ma fa, poi sono anche le saldature, perché mi ricordo non erano uscite molto, molto calde, erano un po' freddine come saldature. Ok, vabbè, niente di cosa, di tragico, perché li puoi sempre rifare e non è un problema, fra. Anzi, poi col tempo, quando hai voglia, la puoi perfezionare sempre di più. Tanto va bene così. Quando hai fatto la canna da pesca, l'avevi comprata lì da Decathlon? No, sono stato più fortunato. Un mio collega, pescatore, aveva questa vecchia canna che addirittura aveva recuperata pescando stesso, l'aveva agganciata con i suoi ami. Ho capito, sì, beh certo, questo sì. Evidentemente va bene anche quella, certo. Sì, perché non deve essere in carbonio, non deve esserci metallo, deve essere proprio isolante, isolantissima deve essere anche come io da cosa, da Decathlon 16 euro costa, da 7 metri, sì, però poi ci ho aggiunto un pezzettino sopra, io ci avevo aggiunto perché la punta era troppo sottile e allora un'altra canna da pesca, diciamo, che avevo la parte, ho preso la parte finale, l'ho inserita proprio per avere la lunghezza giusta e necessaria, capito? No, questa penso che fosse 8 metri in origine, quindi c'è lo spazio per sviluppare tutta l'antenna. Ed è in resina, sì, è in vetro resina, non è in carbonio. Mi ricordo questo fatto qua, deve essere isolata. Sì, perché quel genere, quel progettino, da dove si attacca il dipolo, il coso, il piede, in giù, va bene, metallo, problemi non ce ne sono, però se affiancato al PL, allora o più in alto, e allora incomincia a avere delle perdite, invece dal PL in giù non ci sono problemi, anche per poterla sistemare sul tubo eccetera, problemi non ce ne sono, sì, è così, e va bene, dai, comunque è riuscita, dai, va bene così. Sai qual è il vantaggio? Che la notte non fischia, l'inverno quando soffia vento forte, io parlo di vento 80, 90, 100 km l'ora, e la mantova turbo, quella radiale, fischiava che era un tormento la notte, sai, io proprio ce l'avevo in direzione della camera da letto, attaccata proprio in quel muro che sale dalla camera da letto, e allora la sentivo molto la notte. Ed è per quello anche che l'ho buttata giù, ce l'ho sempre, che è nuova tra l'altro, nuovissima anzi, però ripeto, con questa invece non ci sono radiali, il vento può soffiare quanto vuole, non sento niente, intanto io a casa ho i vetri doppi, vetro camera, per cui non sento niente, capito? Mentre invece prima, come fischiavano i radiali, forse la vibrazione sul muro, che ne so, fatto sta, la sentivo durante la notte ed era fastidiosa. Sì, quando va in risonanza inizia a vibrare, se lo trasmette poi dove l'hai attaccata, al cemento, alla staffa, eppure senti tutta la casa. Sì, perché in realtà io ce l'avevo praticamente sopra la testa, nella stessa direzione, per cui è per quello che anche se era ben ancorata, con delle graffe veramente a posto, addirittura annegate dentro il calcestruzzo quando ho costruito la casa, eccetera, però la vibrazione si sentiva sempre, nonostante i blocchetti, la vibrazione si sentiva sempre quando soffiamo il vento, quando invece è estate era una cosa bellissima, tranquilla, e la voglia, più che bene anzi. Sì, anch'io ho ancora la mantova 1, la vecchia mantova 1, con i radiali resina, ce l'ho via lì, dove si è tutta smontata, dai, da rettificare, da sistemare, però ce l'ho ancora, visto che è anche in buone condizioni, non mi sembra messa male. Io l'ho avuto anche in campagna, sì, da mio padre, però forse non vibrava perché c'erano i tiranti alla base, i tiranti in nylon, in corda, dai. Ok, sì, ho capito. No, quella sai, essendo vetrolina i radiali vibrano di meno, e dunque non fanno musica. Queste invece sono tutte in alluminio da 10 mm di diametro, i tubi sono vuoti internamente, sono dei tubetti da 10 mm, e però quando soffia il vento, ripeto, sono 8 radiali, ma poi sono anche lunghi, sono 1,50 m, mi sembra 1,60 m, una cosa del genere, e dunque voglia. E poi un altro fatto, mentre invece in estate si posano i cosi, come si dice, i piccioni, perché lì nella zona dove sono io ci sono anche i piccioni tante volte, e si posavano sopra lì, aspetta, e prima o poi mi avrebbero rotto qualche radiale, l'antenna che io cosa l'ho usato un anno, fortunatamente non me l'hanno rotta, perché forse perché era ancora troppo nuovo, capito? E dunque il metallo era buonissimo. Le cornacchie sono pericolose, sono più pesanti. Sì, perché danno la spinta, quando spiccano il volo danno la spinta, e dunque insomma, diciamo che il radiale così è sempre alluminio, è sempre un materiale molto tenero, per cui potrebbe anche spezzarlo. Ma Boca, dai, ho sentito la chiamata poc'anzi, mentre tu parlavi ho sentito la chiamata dal basso per la cena. Ci sentiamo, fra. Grazie, dai, per la chiacchierata, è stato molto bello stasera, due chiacchiere abbiamo scambiate, possiamo rimanere soddisfatti, per lo meno io sono soddisfatto. Ciao, fra, alle prossime, grazie ancora, fate sentire quando sono in frequenza, è sempre un piacere ascoltarti. E dai, riprendi, ascolta fino a lì, poi chiudo. Ti ringrazio, il piacere è tutto mio, ricambiamo. Buona cena a te e a tutta la famiglia, dai, ok? Grazie ancora, ciao, buonanotte. Ok, ciao, buonanotte, ciao.